L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta nella quale ci occupiamo di orti botanici. Un po' per rendervi conto dell'apertura straordinaria dello scorso weekend dell'Orto Botanico di Padova, che ha reso accessibile la nuova ala che sarà poi conclusa la prossima primavera, e un po' perché c'è stato quasi in contemporanea un incontro organizzato dagli Orti Botanici Lombardi, una rete che è di 7 orti e che è nata 10 anni fa, che insomma in questo modo ha festeggiato il primo decennale. In questo periodo in cui parchi e giardini vanno verso il loro sonno invernale, gli addetti hanno evidentemente più tempo per studiare, pensare al futuro, formulare strategie anche di sopravvivenza, come vedremo. Diciamo di Padova innanzitutto. L'Orto Botanico di Padova fu istituito nel 1545, come molti altri in Europa nacque per la coltivazione delle piante medicinali che allora costituivano la maggioranza dei semplici, dei medicamenti provenienti dalla natura, e per questo i primi orti venivano chiamati giardini dei semplici. Quello di Padova è il più antico orto universitario del mondo, che abbia conservato tra l'altro la stessa ubicazione dal 1997, è anche nella lista dei beni patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e tra l'altro ha conservato il legame con l'università, con appunto la quale nacque, e ha lavorato sodo l'università per arrivare all'ampliamento mostrato in anteprima alla stampa e alla cittadinanza, come dicevamo la scorsa settimana. Allora iniziamo questa puntata con le parole di Giuseppe Zaccaria, che è il rettore della Università di Padova. Qual era il problema? Che questo sito, benché appunto così prestigioso, di circa 22.000 metri quadri, era relativamente angusto per poter ospitare tutte le piante che vengono coltivate, ed anche vi era la necessità di creare un'area di salvaguardia, essendo un ecosistema, per così dire, molto delicato. Di conseguenza è nata quest'idea di accrescere questo antico orto con un nuovo ampliamento, con una nuova superficie di 15.000 metri quadri, che è stato acquistata nel 2002-2003, e subito dopo l'acquisto si è dato avvio ad un concorso internazionale per la selezione del migliore progetto. Questo progetto, tra 45 inviati da tutto il mondo, è stato poi selezionato, e dal 2010, quando sono stati attribuiti i lavori, ad oggi il progetto è stato anche effettivamente realizzato. Da dove nasce allora la nostra volontà sottesa, insomma, a questo progetto? Nasce innanzitutto dalla volontà di continuare a fare ricerca, e questa tradizione di ricerca così antica, avendo però locali e attrezzature e disponibilità all'altezza dei tempi, e quindi anche che si estenda alle tecniche del DNA, allo studio e alla catalogazione delle piante. Ma poi per raggiungere un pubblico molto più vasto, che si vuole sensibilizzare sul messaggio della tutela della biodiversità. E quindi alla fine è stato proprio la biodiversità il tema scelto per il nuovo orto e la nuova struttura che è stata realizzata in quell'area di 15.000 metri quadrati acquisita dall'università, di cui ci diceva il rettore Zaccaria. Un tema, quello della biodiversità, che si affianca bene a quello dell'Expo di Milano, dice ancora il rettore. Uno specifico progetto riguarda la possibilità di attrarre flussi di visitatori consistenti dall'Expo 2015 di Milano, proprio perché il tema dell'Expo 2015 è esattamente il tema che noi trattiamo e che abbiamo già realizzato in questo nostro giardino della biodiversità. Stiamo intensificando i contatti col sindaco Pisapia, col comune di Milano e con i manager dell'Expo, onde poter portare a Padova a visitare questa struttura flussi consistenti di visitatori che, dopo aver visitato l'Expo di Milano, possano vedere questa bellissima realizzazione, e poi via acqua possibilmente essere trasportati a Venezia. Il nuovo edificio è costituito da più serre che sono tutte collegate, ciascuna ospita un'area climatica diversa, con ovviamente piante adeguate, a forma molto lineare e insospettabili ritrovati di sostenibilità. L'ha progettata e realizzata lo studio VS Associati. Sentiamo l'architetto Giorgio Strapazzon. Qui abbiamo dotato una formula che noi chiamiamo del Solar Active Building, cioè un edificio attivo che sfrutta il sole, perché vogliamo che questo edificio abbia il minore impatto ambientale possibile e che non sia passivo, come va tanto di moda adesso le case passive, ma sia attivo, ovvero sfrutti tutte le possibilità che la natura gli dà in quel determinato luogo per ridurre il più possibile l'impatto ambientale e essere, come dire, migliorativo rispetto all'ambiente che gli sta intorno. Allora, questo si attua secondo me attraverso delle tecnologie soft che attualmente ci sono sul mercato e che non sono poi neanche così tanto complesse. La prima è quella del recupero dell'acqua, per ovvi motivi, per cui tutta l'acqua va in fondo su un vascone di 450 metri cubi che sta esattamente dove avete visto quel canale, esattamente sotto, perché quel canale lì, oltre ad avere un effetto di separazione, diciamo così, estetico, serve a ricircolare l'acqua che sta sotto per evitare che si imputridisca. Quindi tutta l'acqua va lì, ci sono dei pannelli fotovoltaici in cima alla copertura, che forse non vedete, che alimentano, che sono fatti su dei buffer di vetro, sono dei sandwich, che alimentano tutta la parte elettrica, quindi tutte le pompe che di emissione e quant'altro. Tendiamo l'autosufficienza. Ovviamente d'inverno bisogna integrare perché sono 47 kW. E soprattutto sfruttiamo l'effetto serra. Qui è un effetto positivo, cioè noi sfruttiamo l'energia del sole che ci arriva gratis tutti i giorni dell'anno, anche oggi che non c'è, per riscaldare l'ambiente interno e sfruttare l'energia del sole per cambiare l'ambiente interno. Ovvero, nel momento in cui fa freddo, il raggio del sole entra e non esce più, come è noto. Viene accumulato, diciamo, nella parte massiva che è in cemento e viene rilasciata di notte. D'estate invece il riscaldamento dell'aria da parte del sole, che viene tra l'altro anche controllato dai tendaggi che aprono o chiudono a seconda delle esigenze, riscalda l'aria e crea dei movimenti d'aria. Sfruttiamo questi movimenti dell'aria, quindi i moti convettivi, per a quel punto abbassare la temperatura, perché l'effetto vento ti porta a un abbassamento della temperatura interna. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Stiamo parlando di orti botanici in questa puntata, in particolare di quello nuovo di Padova, che è contiguo a quello vecchio, quindi è in centro città e sarà completamente aperto al pubblico dalla prossima primavera. C'è però stata un'apertura straordinaria per la stampa e poi per la cittadinanza lo scorso weekend. Abbiamo parlato di questo nuovo orto con il rettore dell'università Giuseppe Zaccaria, che ha fortemente voluto questo ampliamento. Abbiamo sentito l'architetto Strapazzon che l'ha progettato e ora sentiamo cosa c'è in queste nuove serre. Il tema prescelto è quello della rappresentazione della biodiversità sul pianeta. Qualche dettaglio in più l'abbiamo avuto da Roberto Tacchetto, curatore dell'Orto Vecchio e anche di quello nuovo. Un visitatore, quando sarà aperto al pubblico, cosa non deve perdere? Ma sicuramente sia la struttura architettonica, perché è veramente qualcosa di molto particolare, ma direi che all'interno delle serre vi è un po' di tutto, perché la parte tropicale, soprattutto la vasca delle ninfee con la Vittoria cruziana, le Oriale, sono molto particolari. Poi ci sono alcune ninfee particolarmente ricche di fioriture, diciamo. Quindi e forse poi, più la completezza, ecco, dell'offerta, nel senso che uno può avere una gamma completa, forse. Sarà sicuramente completo rispetto adesso, di tutta la parte espositiva, cioè tutti questi corridoi effettivamente poi saranno riempiti di tutti quei sistemi anche multimediali che esporranno ciò che si vedrà all'interno delle serre, quindi esporranno i diversi ambienti. Quindi ci sarà tutta una spiegazione di ciò che si potrà vedere all'interno delle serre. Poi all'interno delle serre vi saranno tutta una serie di indicazioni anche su specifiche piante, su qual è il tipo di fiore, il tipo di frutto che producono e l'utilizzo che si fa, perché come era stato spiegato prima dal professore c'è non solo diciamo l'ambiente, all'interno di questa serra non si parla solo dell'ambiente ma si parla anche del rapporto piante e uomo, quindi vi sarà anche tutta questa parte, diciamo, di tipo etnobotanico che verrà esposta, perché verrà descritta, che ci si possa rendere conto di quanto queste piante piante poi sono nella nostra vita quotidiana. Sì, sono stati importanti sia nel passato quanto lo possono essere anche attualmente. Lo si farà con una visita, diciamo, guidata, quindi no, con un accompagnatore o anche... No, sicuramente le visite guidate, perché ci sono anche attualmente nel vecchio orto, quindi continueranno sicuramente anche nel nuovo. Però ci sarà anche tutta una parte espositiva, cioè dei cartelloni, delle parti, diciamo, materiali di tipo multimediale che appunto verrà disposto all'interno di questi diversi corridoi, le stesse in quasi tutte le serre tranne nella tropicale. Poi vi sono questi angoli, diciamo, queste parti che sono dedicate poi alla parte di tipo didattico, quindi attraverso laboratori didattici che verranno creati per i bambini, insomma per le scuole. Quindi all'interno, sia in questa serra che nelle serre precedenti, ci sono questi spazi, questi sono appunto, verranno utilizzati appunto a questo scopo, il tipo didattico. Sono cinque le serre? Le serre sono, c'è una prima serra che è sostanzialmente doppia, quella che ha la prima parte, poi c'è quella con la vasca, quella, diciamo, tropicale. È di tipo tropicale e subtropicale sostanzialmente, poi c'è un'altra serra di tipo più temperato, una mediterranea e poi questa del succulente. Poi in quest'area verrà anche dedicata una piccola parte, saranno delle teche nel quale sarà la vegetazione di tipo artico, quindi con temperature sostanzialmente molto basse, prossime allo zero, quindi saranno solo delle teche, però in questo caso ovviamente, perché il visitatore è un po' un problema farlo entrare a zero gradi forse. No, anche perché se no sarà un problema mantenere quelle piante. Sì, esatto. E l'ultima cosa che volevo chiedere, alcune di queste piante provengono dall'orto, tutte. Ecco, visto i cartellini che indicano quindi la provenienza dell'orto vecchio, diciamo così. Il 99% delle piante, cioè qui sono state acquistate soltanto... Oppure sono sostituite da altre? No, allora il problema dell'orto vecchio era che avevamo una ricca collezione, un po' tutte le piante che vedete qua, in vaso, quindi c'era il problema poi della loro collocazione durante il periodo invernale. Ormai le piante erano diventate molte e all'interno delle serre erano stipate, quindi ovviamente sì, le piante poi insomma, tendono a rovinarsi ovviamente. E quindi abbiamo portato sostanzialmente una o due piante per ogni specie. Quindi per molte avevamo solo esemplari, quindi le abbiamo ovviamente portate. Però abbiamo ancora, nell'ambito ad esempio delle piante grasse, abbiamo circa 800 piante, ne avremo ancora la metà sostanzialmente, qui sono circa 350-400 piante. Quindi diciamo là finalmente rifiatano. Ecco, là finalmente rifiatano, poi c'era anche la necessità che abbiamo le serre vecchie che devono essere ristrutturate, quindi non potranno ospitare le piante nei prossimi anni quando ci sarà la ristrutturazione delle vecchie serre. Tutto questo quindi a Padova, nel nuovo orto botanico all'interno di quello vecchio. Ma come dicevamo in apertura, in questa puntata parliamo di orti a tutto campo e quindi ci spostiamo adesso in Lombardia. Il tema degli orti è stato affrontato nel corso di Bergamo Scienza con un convegno dal titolo Costruiamo insieme il futuro degli orti botanici, organizzato dalla Rete degli Orti Botanici della Lombardia per i suoi 10 anni di vita. Gli orti lombardi sono 7 e sono a Bergamo, Bormio, Brera Milano, Milano Cascina Rosa, Toscolano Maderno, quindi provincia di Brescia, Pavia, Villa Carlotta a Tremezzo, provincia di Como. A Pia Meda, responsabile della comunicazione di questa rete lombarda, abbiamo chiesto che senso ha mantenere in vita gli orti oggi. È semplice. Gail Bromley dei Kew Gardens di Londra ha dichiarato a Bergamo nel convegno che gli orti botanici salveranno il mondo, e secondo lei, ma anche secondo noi che lavoriamo negli orti, non si tratta di un'affermazione esagerata, perché la vita sul pianeta dipende dalle piante e gli orti botanici che lavorano per conservarle, studiarle, farle conoscere sono fondamentali in un mondo in cui, mentre il clima sta cambiando, la popolazione è in continua crescita e non ci sono sufficienti risorse alimentari per sfamarla. E quindi in questo contesto l'orto diventa un fulcro, un luogo di studio, ma è anche un luogo in cui il pubblico può conoscere queste problematiche, no? Sì. Senz'altro, adesso soprattutto oggi, perché un orto botanico possa resistere in questo momento di crisi e vivere, bisogna che diventi uno spazio di relazione, deve favorire gli incontri tra le persone, deve collegare le proprie attività con la vita quotidiana delle persone. Oggi i musei, e l'orto botanico è un museo, sono sempre più fatti dalle relazioni piuttosto che dalle cose, dalle opere e quindi dalle piante che li ospitano. Bisogna mettere dentro un museo sempre più attività che attirino la gente. Senza snaturarne però la natura, per l'appunto. senza snaturarle, perché sempre di piante parleremo e sempre di piante, sempre le piante metteremo al centro. Però non può più essere una turris eburnea, un luogo chiuso, ma un luogo in cui bisogna attirare le persone, non tanto per farne una Disney, un divertimento, ma perché le persone possano avere occasioni di incontro e stabilire delle relazioni. Per fare tutto questo immagino gli orti abbiano le stesse difficoltà dei musei, per l'appunto, cioè il raccogliere i fondi necessari a fare queste attività in più. Sì, questa è proprio ragione. Durante il convegno abbiamo parlato della nostra attività di fundraising, perché la rete degli orti botanici della Lombardia, ne ha parlato Paolo Celli di Centrale Etica, ha organizzato l'inverno scorso un corso di fundraising a distanza che ha aiutato, come si sono viste dalle esperienze raccontate nel convegno di Bergamo, diverse situazioni. Mi viene in mente quella dell'orto botanico del giardino di Villa Carlotta a Tremezzo o del giardino dei Semplici di Firenze. Un'attività programmata di fundraising è assolutamente necessaria. Un esempio su tutti può essere interessante di fundraising. Proprio la rete degli orti di Lombardia ha lanciato una campagna Adotto un Seme come sostegno economico. Vengono dati dei semi e vengono date anche le istruzioni per far germinare e coltivare la pianta che derivano da questi semi. Questa campagna Adotta un Seme ha anche una versione con un kit per le scuole, cioè oltre ai semi vengono fornite indicazioni didattiche agli insegnanti, e devo dire che questo kit didattico incontra un gran successo. È molto bella anche l'esperienza di cui mi ha parlato a Messina, quindi siamo fuori dalla rete lombarda però comunque in Italia. Che cosa è accaduto a Messina? Allora, Rosella Picone dell'Orto Botanico di Messina ha raccontato durante il convegno di Bergamo come affronta il problema delle piante di estinzione siciliane. Allora, a Messina conservano queste piante a rischio dentro l'orto, però in una maniera assolutamente, diciamo, quasi anticonformista, senz'altro poco diffusa, riproducono queste piante e le propongono come piante ornamentali e soprattutto le sistemano all'esterno dell'orto botanico. Per esempio, le hanno sistemate lungo una pista dove la gente va a correre, a fare footing. L'orto esce. Il pubblico dell'orto non è solo costituito da persone che entrano nei suoi cancelli, nei suoi recinti, ma il pubblico dell'orto è quello che l'orto si va a cercare fuori. Chiarissimo. Pia Meda, come dicevamo, responsabile comunicazione della rete degli orti botanici della Lombardia, si trova anche su internet, no? Il materiale di cui abbiamo parlato, quindi si può trovare sul sito www.reteortibotanicilombardia.it. Che vi permetterà anche di rimanere aggiornati sull'attività della rete. E quindi visitare gli orti lombardi, che sono 7, ricordiamolo, quindi non sono pochi. Gli orti sono 7, sì. È tutto per questa puntata, vi ricordo per scriverci l'altropianeta@radio24.it, buon proseguimento d'ascolto, appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora.